Letture di Radio 24. Una delle conseguenze indirette della crisi è l'incremento del ricorso ai prestiti da parte degli strozzini, una piaga che colpisce sempre di più le donne e le persone anziane. C'è chi ha un'impresa o un negozio da mandare avanti, ma c'è anche chi, più semplicemente e purtroppo drammaticamente, non ce la fa a sostenere la famiglia. E allora è costretta a chiedere soldi in prestito per fare la spesa, pagare le bollette e arrivare alla fine del mese. Denaro che serve subito, contanti che banche e società finanziarie non possono dare. L'unica soluzione rimane quella degli strozzini. Ed è proprio la strada che le donne percorrono sempre più spesso. I numeri che il Centro per i diritti del cittadino del Lazio ha raccolto nell'ultimo anno fanno impressione, perché disegnano una realtà che sembra volgere inesorabilmente verso difficoltà finanziarie troppo frequenti. Nel 2012 il 66% delle chiamate per denunciare di essere vittima degli usurai e chiedere aiuto sono state effettuate da donne. Bene il 13% in più del 2011. Un fenomeno allarmante perché dimostra, secondo gli esperti, il peggioramento rapido delle condizioni di vita di famiglie che fino a qualche anno fa avevano invece una situazione assolutamente tranquilla. L'andamento negativo viene confermato anche da un altro dato ritenuto significativo dagli analisti: l'aumento dell'età media di chi sollecita assistenza. Nel 2011 le chiamate arrivavano prevalentemente da persone tra i 26 e i 45 anni. Negli ultimi 12 mesi si è passati a una fascia di utenti compresa tra i 46 e i 65 anni. E quando si tratta di comunicare la professione svolta, la maggioranza spiega di essere impiegato. Avete ascoltato la lettura del commento di Fiorenza Sarzanini «Adesso sono le impiegate ad avere bisogno dello strozzino» da Io Donna del 16 febbraio. In Arabia Saudita si fanno piccoli passi per aprire alle donne alcune possibilità che prima erano riservate soltanto agli uomini, ma intanto si erigono muri all'interno dei negozi per evitare qualunque contatto tra i due sessi. Segregare i corpi, tenere lontano da qualsiasi sguardo maschile capelli, mani e gambe, ma sfruttare le competenze, l'intelligenza e l'intuito. È la sorte delle donne in Arabia Saudita, dove ogni passo verso l'indipendenza viene accompagnato da un passo contrario, verso la riduzione delle loro libertà. L'ultimo esempio è il muro che verrà presto eretto all'interno dei negozi per garantire che venga rispettata alla lettera la separazione tra i sessi. Lo ha stabilito il governo, che ha deciso l'obbligo di far costruire una separazione alta 1,60 m per determinate categorie di esercizi commerciali, così da evitare contatti tra maschi e femmine. Il provvedimento interessa i negozi di biancheria intima e cosmetica, dove alle donne da giugno è consentito lavorare come commesse. Una decisione che era stata salutata come una conquista per le saudite, per le quali si sono aperte nuove opportunità professionali e di indipendenza economica, con la creazione nei prossimi anni di oltre 44.000 nuovi posti di lavoro. Adesso però arriva l'annuncio del muro divisorio. E sul rispetto dell'ordine veglierà la Commissione per la propaganda della virtù e la prevenzione del vizio, nota come polizia religiosa. Ma se da un lato i corpi devono essere nascosti e controllati il più possibile, è perfino stato attivato un servizio di SMS che avvisa il marito se la moglie lascia da sola il paese, dall'altro per le saudite si stanno aprendo sempre più possibilità in settori finora esclusivamente maschili. È di gennaio la notizia rivoluzionaria che 30 seggi sono stati riservati alle donne nel Consiglio della Shura, l'organismo consultivo che propone le leggi al sovrano. Ora un nuovo traguardo. Le saudite potranno entrare a far parte del Dipartimento Generale per le indagini. Le candidate per il momento si occuperanno soltanto dei servizi sociali e umanitari. In particolare, dovranno assicurare i rapporti con le famiglie dei detenuti. Piccoli passi verso la libertà nell'unico paese al mondo in cui alle donne è ancora proibito guidare e votare. Trovare un equilibrio è difficile in una realtà in cui vige il wahhabismo, versione ultraconservatrice dell'Islam. Ma le donne studiano e vogliono emanciparsi. Adesso le saudite possono dormire da sole negli alberghi del regno, ma per viaggiare hanno sempre bisogno del permesso del guardiano, cioè un uomo della famiglia.